parlare, cantare, studiare, sognare, vivere. È così che in ogni tuo atteggiamento, fino allo sbattimento, non c'è più quel che fai, ma che sei. Non perdere tempo perché quel che hai. Che dare sapore a ciò che di niente sa. E vedrai che più donerai, più riceverai. Non mancheranno le difficoltà, ma la paura non dice la verità. Si spaccia per prudenza e finta umiltà, ma in realtà ne ci vuole bruco. Sarà libero, se di lei tu vivrai, li le splenderai, ti incontrerà, se ne accorgerà. Voglio essere anch'io felice, come lui, ma lui è lui ed io sono io. Io desidero tanto capire da dove provenga la sua luce costante riflessa, perché voglio anch'io, coi miei colori, risplendere di essi.